Capitolo 88. Minosse e i suoi fratelli. Quando Zeus la lasciò dopo aver generato in lei Minosse, Radamanto e Sarpedone, Europa sposò Asteria, re di Creta, il cui padre Tettamo, figlio di Doro, aveva portato nell'isola un gruppo di coloni Eoli e Pelasgi e si era unito in matrimonio alla figlia di Creteo, Leolio. Poiché le nozze con Europa si rivelarono sterili, Asterio adottò Minosse, Radamanto e Sarpedone e li nominò suoi eredi. Quando i tre fratelli divennero adulti, litigarono per amore di un bellissimo giovane chiamato Mileto, figlio di Apollo e della ninfa Aria, che altri chiamano Deiona e altri ancora Tia. Poiché Mileto mostrava di prediligere Sarpedone, Minosse lo scacciò da Creta ed egli salpò con una grande flotta alla volta dell'Asia Minore, dove fondò la città e il regno di Mileto. Nel corso delle due generazioni precedenti, questa regione, chiamata allora Anatolia, era stata governata dal gigante Anatto, figlio di Urano e della madre Terra, e dal figlio di Anatto, Asterio, di statura pure gigantesca. Lo scheletro di Asteria, ucciso da Mileto e seppellito su un'isoletta al largo di Lade, fu disotterrato recentemente. Misurava almeno 10 cubiti. Altri, tuttavia, dicono che Minosse sospettò Mileto di volersi impadronire del regno. Per non suscitare l'ira di Apollo, si limitò a rimproverare il giovane che riparò in Caria di sua spontanea volontà. Secondo altri ancora, il fanciullo che suscitò la rivalità dei tre fratelli non fu Mileto, ma un certo Atinio, figlio di Zeus e di Cassiopea o Fenice. Dopo la morte di Asteria, Minosse avanzò pretese sul trono di Creta e, per provarne la legittimità, disse che gli dei avrebbero esaudito ogni sua preghiera. Consacrato dunque un altare a Posidone e fatti i preparativi per un sacrificio, pregò perché un toro emergesse dal mare. Subito uno splendido toro di un candore abbagliante nuotò sino alla riva, ma Minosse fu così colpito dalla sua bellezza che lo mandò al pascolo con la propria mandria, uccidendo un altro toro in sua vece. Le pretese di Minosse al trono furono accettate da tutti i cretesi all'infuori di Sarpedone, il quale non si era rassegnato alla perdita di Mileto, e dichiarò dunque che secondo il volere di Asteria il regno avrebbe dovuto essere diviso tra i suoi eredi. Minosse, a dire il vero, aveva già frazionato l'isola in 3 parti e scelto una capitale per ciascuna. Scacciato da Creta per ordine di Minosse, Sarpedone si rifugiò in Cilicia, nell'Asia Minore, dove si alleò con Cilice contro i Mili, li sopraffece e divenne loro re. Zeus gli concesse il privilegio di vivere per 3 generazioni e quando infine egli morì, il regno Milio fu chiamato Licia dal nome del successore di Sarpedone, Lico, che si era rifugiato presso di lui dopo che Egeo l'ebbe scacciato da Atene. Frattanto Minosse aveva sposato Pasifae, figlia di Elio e della ninfa Creta, altrimenti nota come Perseide. Posidone, per vendicarsi dell'affronto fattogli da Minosse, fece sì che Pasifae si innamorasse del toro bianco sottratto al sacrificio. Essa confidò la sua insana passione a Dedalo, il famoso artefice ateniese, che ora viveva in esilio a Cnosso e deliziava Minosse e la sua famiglia con le bambole animate che intagliava nel legno. Dedalo promise il suo aiuto a Pasifae e, avendo costruito una vacca di legno ricoperta con una pelle di vacca e montata su 4 ruote abilmente celate negli zoccoli, la spinse in un prato nei pressi di Gortina, dove il toro di Posidone stava pascolando sotto le querce tra le vacche di Minosse. Dedalo mostrò a Pasifae come introdursi nella vacca di legno attraverso uno sportello scorrevole, sistemando le gambe nelle zampe posteriori, e si ritirò poi discretamente. Ben presto il toro bianco trotterellò verso la finta vacca e la montò, così Pasifae poté soddisfare il proprio desiderio e diede in seguito alla luce il Minotauro, un mostro con la testa di toro e il corpo umano. Altri dicono che Minosse, che sacrificava ogni anno a Posidone il migliore dei suoi tori, cercò un giorno di ingannare il dio sacrificandogli un animale meno pregevole, di qui l'ira di Posidone. Altri dicono che la divinità offesa fu Zeus, altri ancora che Pasifae trascurò per parecchi anni di propiziarsi Afrodite, che la punì infiammandola di tale insana passione. In seguito il toro bianco si inferocì e devastò l'intera isola, finché Eracle lo catturò e lo portò in Grecia, dove fu poi ucciso da Teseo. Minosse consultò un oracolo per sapere come potesse evitare lo scandalo e nascondere il mostruoso figlio di Pasifae. La risposta fu: chiedi a Dedalo di costruire un nascondiglio a Cnosso. Dedalo obbedì e Minosse passò il resto della sua vita nell'inestricabile labirinto, al centro del quale celò Pasifae e il Minotauro. Radamanto, più saggio di Sarpedone, rimase a Creta. Egli visse in pace con Minosse e fu ricompensato con un terzo del regno di Asterio. Famoso per la sua equanimità nel far rispettare le leggi, inflessibile nel punire i trasgressori, egli legiferò sia per i cretesi sia per gli isolani dell'Asia Minore, molti dei quali adottarono spontaneamente il suo codice. Ogni 9 anni egli si recava nella grotta di Zeus e ne riportava delle nuove leggi. Tale pratica fu poi seguita anche da suo fratello Minosse. Taluni negano che Radamanto fosse fratello di Minosse e lo dicono figlio di Efesto. Altri poi negano che Minosse fosse figlio di Zeus e lo dicono figlio di Licasto e della ninfa Ida. Egli lasciò in eredità la terra di Creta a suo figlio Gortino, da cui prese il nome la città cretese, benché i tegeati sostengano che Gortino fosse un Arcade, figlio di Tegete. Radamanto lasciò in eredità una terra dell'Asia Minore a suo figlio Eritro e l'isola di Chio a Enopione, figlio di Arianna, che per primo apprese da Dioniso l'arte di fare il vino, e Lemno a Toante, un altro dei figli di Arianna, e Curno a Enilo, e Pepareto a Stafilo, e Maronea a Evante, Paro ad Alceo, ed Elo ad Anio, e Andro ad Andro. Radamanto dovette poi fuggire in Beozia perché aveva ucciso un suo parente e visse colà in esilio a Ecalea, dove sposò Alcmena, la madre di Eracle, dopo la morte di Anfitrione. La sua tomba e la tomba di Alcmena ancora si vedono ad Aliarto, presso una piantagione di solidi giunchi importati da Creta, donde si ricavano giavellotti e flauti. Altri dicono che Alcmena sposò Radamanto nei campi Elisi, dopo la sua morte. Zeus infatti aveva nominato Radamanto giudice dei morti e i suoi colleghi erano Minosse ed Eaco. Sir Arthur Evans classificò i periodi successivi della cultura cretese preclassica come Minoico I, II e III, il che ci fa pensare che il re di Creta fosse già chiamato Minosse all'inizio del terzo millennio prima di Cristo, ma questa ipotesi ci porta fuori strada. Minosse pare fosse l'appellativo regale di una dinastia ellenica che governò in Creta all'inizio del secondo millennio prima di Cristo. Ogni re sposava ritualmente la sacerdotessa della luna a Cnosso e assumeva da lei il titolo di essere lunare. Minosse è anacronisticamente considerato il successore di Asterio, nipote di Doro, mentre i Dori non invasero Creta che alla fine del secondo millennio. È più probabile che Eoli e Pelasgi, che forse comprendevano anche gli Ioni d'Attica, guidati da Tettamo, artista, un nome che lo identifica con Dedalo e con Efesto, il supposto padre di Radamanto, fossero in origine i compagni di Minosse, e che Asterio, stellato, sia la forma maschile di Asteria, la dea come regina del cielo e creatrice delle potenze planetarie. Anche Creta è una parola greca, una forma di Crateia, dea forte o imperante, da cui derivano Creteus e Creceus. Le ricerche compiute recentemente da M. Ventres e da J. Chadwick sulla scrittura detta minoica lineare B, prima indecifrata e di cui si sono trovati esempi a Pilo, a Tebe e a Micene, come pure tra le rovine del palazzo di Cnosso saccheggiato nel 1400 avanti Cristo, dimostrano che la lingua ufficiale a Cnosso verso la metà del secondo millennio era una forma primitiva di greco eolico. Tale scrittura pare sia stata inventata per una lingua non ariana e adattata poi al greco con una certa difficoltà. Non è stato ancora stabilito se le iscrizioni del minoico lineare A siano in greco o in cretese. Una grande quantità di nomi tratti dalla mitologia greca si ritrovano su tavolette cretesi e continentali e tra essi ricordiamo Achille, Idomeneo, Teseo, Creteo, Nestore, Fialte, Xuto, Aiace, Glauco ed Eolo. Ciò ci fa supporre che molti di questi miti fossero antecedenti alla caduta di Troia. Poiché Mileto è un nome maschile, il solito mito dei due fratelli che litigano per amore di una donna ha assunto qui un carattere di omosessualità. In verità pare che durante il torbido periodo che seguì il saccheggio di Cnosso verso il 1400 avanti Cristo, molti nobili cretesi di lingua greca e di origine eolo-pelasgica o ionica, devoti alla dea della luna, emigrassero con i loro servi indigeni in Asia Minore, specialmente in Caria, in Licia e in Lidia. Infatti, senza tener conto della dinastia di Sarpedone in Licia, Erodoto dice che i Lici del suo tempo rispettavano ancora la discendenza matrilineare e così pure i Cari. Miletos può essere una parola cretese indigena, oppure una trasposizione di Milteios, il colore del rosso ocra, e dunque un sinonimo di Eritro o Fenice, due nomi che significano pure rosso. La carnagione dei cretesi era più rosea di quella degli elleni e i lici e i cari erano in parte di origine cretese, come pure i purisati filistei, il cui nome significa appunto uomini rossi. I giganti di Anatoria ricordano gli Anakim della Genesi, i giganti che Caleb scacciò da un oracolo che era un tempo appartenuto a Efrom, figlio di Het. Teti? Efron diede il suo nome a Hebron e può essere identificato con Foroneo. Questi Anakim pare fossero venuti dalla Grecia come membri di quella confederazione dei popoli del mare che procurò tanti guai agli egiziani nel XIV secolo avanti Cristo. L'Ade, la località dove fu sepolto Anatto, figlio di Asterio, fu così chiamata, probabilmente, in onore della dea Lat, Leto o Latona, e il fatto che questo Asterio porti lo stesso nome del padre di Minosse ci fa supporre che i milesi l'avessero condotto con loro dalla Mileto cretese. Secondo un'ipotesi plausibile che troviamo nell'irlandese Book of Invasion, i milesi irlandesi erano di origine cretese e si rifugiarono in Siria venendo dall'Asia Minore. Di là salparono verso occidente nel XIII secolo avanti Cristo, toccando Getulia nel Nord Africa e infine giunsero in Irlanda passando da Brigantium, Compostela, nella Spagna nord-occidentale. Il fatto che Mileto si vantasse d'essere figlio di Apollo ci fa supporre che ai re milesi, come ai re corinzi, fossero concessi attributi solari. Il trionfo di Minosse, figlio di Zeus, sui suoi fratelli, si riferisce a un probabile dominio dei Dori in Creta. Tuttavia Minosse sacrificò il toro a Posidone, il che ci fa avanzare di nuovo l'ipotesi che i più antichi re, onorati con l'appellativo di Minosse, fossero Eoli. Creta fu per molti secoli un'isola ricchissima e verso la fine dell'VIII secolo prima di Cristo venne divisa tra Achei, Dori, Pelasgi, Cidoni, Eoli e i veri cretesi che occuparono l'estremità occidentale dell'isola. Diodoro Siculo cerca di fare una distinzione tra Minosse, figlio di Zeus, e suo nipote Minosse, figlio di Licasto, ma è probabile che due o tre dinastie di Minosse regnassero successivamente in Cnosso. Il nome di Sarpedone, che si rallegra in un'arca di legno, ci fa supporre che egli avesse portato con sé in Licia il culto dell'eroe solare, il quale, all'inizio dell'anno nuovo, fa la sua apparizione come un fanciullo che galleggia in un'arca come Mosè, Perseo, Anio e altri. Il nome della madre di Pasifa e Perseide indica un rapporto tra Creta e il mito di Perseo. Il privilegio concesso da Zeus a Sarpedone di poter vivere per tre generazioni significa forse che in luogo dei soliti 8 anni, un grande anno, gli fu concesso di rimanere sul trono per 19 anni, quando si verificava una migliore sincronizzazione del tempo solare e lunare. Poiché Pasifa, secondo Pausania, è un appellativo della Luna e Itonia, il suo secondo nome, è un appellativo di Atena, come propiziatrice di piogge, il mito di Pasifa e del toro si riferisce a un matrimonio rituale celebrato sotto una quercia tra la sacerdotessa della Luna, che portava corna di vacca, e il re Minosse, che portava una maschera da toro. Secondo Esichio, Gortis sta per Carten, la parola cretese che indica la vacca, e quel matrimonio pareva simboleggiasse le nozze tra il sole e la luna, poiché a Gortina vi era una mandria sacra al sole. La discrezione di Dedalo, che si ritira dal prato, ci fa pensare che queste nozze non si celebrassero in pubblico alla maniera dei Pitti o dei Mesonici. A molti greci di epoca più tarda il mito di Pasifae non piacque, ed essi preferirono credere che essa avesse avuto rapporti non con un toro, ma con un uomo chiamato Tauro. I tori bianchi, che erano gli animali particolarmente sacri alla luna, figuravano nei sacrifici annuali sul Colle Albano a Roma, nel culto di Dioniso Tracio, nel rito del vischio e della quercia presso i druidi galli e, secondo il Book of the Duncow in Irlanda, nei riti divinatori che precedevano anticamente l'incoronazione. Il palazzo di Minosse a Cnosso era un intrico di camere, anticamere, sale e corridoi dove un estraneo poteva facilmente smarrirsi. Sir Arthur Evans fa l'ipotesi che il labirinto fosse appunto il palazzo stesso, così chiamato dalla labris o doppia ascia, l'emblema della sovranità in Creta, che aveva la forma di due quarti di luna, crescente e decrescente, uniti dorso a dorso e simboleggianti il potere creatore e distruttore della dea. Ma il labirinto di Cnosso era ben distinto dal palazzo e pare che il suo tracciato fosse riprodotto su un pavimento a mosaico e indicasse lo schema di una danza rituale. Tale schema si ritrova in luoghi assai lontani da Creta come il Galles e la Russia nord-orientale e serviva per la danza di Pasqua che si eseguiva in Italia e a Troia. Pare che tale danza fosse stata introdotta in Gran Bretagna verso la fine del terzo millennio avanti Cristo da immigrati neolitici provenienti dal Nord Africa. Omero descrive il labirinto di Cnosso. Dedalo a Cnosso un giorno incise sala di danza per la bionda Arianna. E Luciano accenna a danze popolari cretesi parlando di Arianna e del labirinto. Il culto di Radamanto giunse probabilmente a Creta dalla Beozia e non viceversa. A Liarto, dove Radamanto aveva un santuario eroico, era sacra alla bianca dea del pane, cioè Demetra. Infatti Alia, del mare, era un appellativo della luna come Leucotea, la bianca dea, e Artos significava pane. Alcmena, forte nell'ira, è un altro appellativo della luna. Benché sia ritenuta parola cretese, Radamanto sta forse per Rabdomantis, colui che indovina con una verga, nome che fu dato al canneto di Aliarto, dove il suo spirito faceva frusciare profeticamente le canne. Se le cose stanno davvero così, la leggenda che egli avesse dato leggi a Creta e alle isole dell'Asia Minore significa che un oracolo analogo veniva interrogato a Creta all'inizio di ogni nuovo regno e che il suo responso era accettato in tutte le regioni che avevano adottato i pesi, le misure e le convenzioni commerciali cretesi. Radamanto è chiamato figlio di Zeus, meglio che di Efesto, indubbiamente perché gli oracoli venivano emanati dalla grotta del Ditte sacra a Zeus. A Pezzofa, in Creta, fu rinvenuto un gran fascio di teste e di membra umane di gesso, ciascuna con un buco attraverso il quale si poteva passare un nastro. Collegate a un tronco di legno, avrebbero potuto formare le bambole snodabili di Dedalo, simboli della dea della fertilità. Probabilmente le si appendeva a degli alberi dove, agitandosi al vento, assicuravano un buon raccolto. Sul famoso anello d'oro del tesoro dell'Acropoli di Micene si può vedere una di queste bambole appesa a un albero da frutta. Il culto degli alberi forma l'oggetto di parecchie opere d'arte minoiche e Arianna, la dea cretese, si impiccò come Lattica e Rigone. Artemide l'impiccata, che aveva un santuario a Condilea in Arcadia ed Elena degli alberi, che aveva un santuario a Rodi, e si dice fosse stata impiccata da Polissena, sono forse varianti della medesima dea.